stanotte sulla sabbia in mezzo al mare. Era carino ma non credo fosse amore. E non ci sono tabù sulla spiaggia di Corfù. Sono pronta per tuffarmi in mare aperto. Sono pronta per soffiare contro il vento. E l'università è tutto quello che verrà. E la scuola è finita. La scuola è finita. La scuola è finita. La scuola è finita. Voglio arrivare dove non so immaginare. Non voglio più voltarmi, voglio accelerare. Nessuno mi fermerà e io mi sento libera. Perché la scuola è finita. La scuola è finita. La scuola è finita. Scuola è finita. Al di là dell'orizzonte voglio lasciare le mie impronte. Sento il respiro della vita che ho di fronte. Sotto queste stelle in alto i bicchieri e giuriamo che noi non cambieremo mai. Non cambieremo mai. Non cambieremo mai. Non cambieremo mai.